Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buona domenica e benvenuti a Magazine 24, l'appuntamento che Radio 24 dedica a settimanali e periodici. È domenica 11 dicembre, io sono Marco Bellinazzo e vi terrò compagnia in questa domenica. Domenica prossima tornerà il titolare della cattedra, Mauro Meazza. Dunque, sono stati questi giorni, per chi vive nelle grandi città, molto complicati dal punto di vista dell'inquinamento e della viabilità. Milano ha avuto un blocco del traffico per due giorni, anche Roma ne ha subiti di limitazioni e molti settimanali si occupano appunto di temi ecologici. In particolare Focus dedica l'intero numero alla ricerca di quegli strumenti e di quelle alternative alla viabilità automobilistica per rendere le città più pulite. Ci sono molti servizi interessanti, ma in particolare mi ha colpito quello sulla nuova città che dovrà essere soprattutto camminabile, perché secondo una ricerca di cui appunto Focus si occupa, esiste in sostanza una mortalità da poltrona che supera di gran lunga i danni che fa lo stesso inquinamento atmosferico e gli incidenti in bicicletta. Leggiamo appunto da questo articolo. Si parla di questo studio che ha appena analizzato il rapporto fra i danni da inquinamento e quelli della sedentarietà. Esaminando i 181.000 sottoscrittori del servizio di bike sharing della città di Barcellona, l'11% degli abitanti tra l'altro fa uso di questo metodo di spostamento, è stato appunto calcolato che i ciclisti pedalano in media fra i 3,29 km e i 4,15 nei giorni festivi. Confrontati i ciclisti con altrettanti automobilisti per un anno, i ricercatori hanno contato che fra i ciclisti ci sono lo 0,03 decessi in più per incidenti del traffico e 0,13 decessi in più per inquinamento dell'aria, ma ben 12,14 decessi in meno per sedentarietà. Dunque, tradotto in termini pratici, è più temibile la poltrona con oltre 12 morti l'anno su 181.000 automobilisti che l'aria inquinata con 0,13 in più fra gli altrettanti ciclisti. Dunque una ricerca che dovrebbe in qualche modo spingere a utilizzare di più la bici o comunque ad evitare l'auto, ma soprattutto a non stare in poltrona davanti alla TV per evitare malanni. Sarà vero, immagino di sì. In ogni caso la ricerca di metodi ecologici e di un impatto meno negativo per l'ambiente è arrivata fino anche nella industria che produce la Barbie. La Barbie infatti si è pentita e diventerà eco. Sempre Focus appunto ci racconta che dalla fine del 2011 il 70% del materiale che compone gli imballaggi dei giochi della Mattel, il colosso che produce la Barbie, sarà costituito da materiali di riciclo e sostenibili, per arrivare addirittura all'85% entro il 2015. Cosa era successo? È successo che Greenpeace aveva appunto accusato la Mattel di truffare utilizzando in sostanza cellulosa proveniente dalle foreste indonesiane, di partecipare così alla loro distruzione. Mattel è corsa ai ripari, ha reso noto di aver sospeso i rapporti con le aziende coinvolte nella deforestazione e tra l'altro Greenpeace aveva anche diffuso di recente un video in cui Ken, lo conoscete tutti, l'equivalente maschile della Barbie, aveva appunto lasciato Barbie tristissima dopo aver appreso che la partner contribuiva alla devastazione dei polmoni verdi tropicali. Sempre per tornare a notizie, come dire, di carattere ecologico, a notizie green, oggi ci occupiamo di questo, vorrei citare il numero che trovate in edicola da questa settimana di il mensile del gruppo Sole 24 Ore, tra l'altro dedicato alla meritocrazia, un tema che andrebbe sempre valorizzato, e ci parla appunto dei giornali. Sapete che c'è la crisi dei giornali, non dovrebbe esserci più un giornale cartaceo nei prossimi anni. Si parlava tanto della ultima copia del New York Times, però pare che abbiano scoperto un modo invece per rendere utili i giornali. Leggiamo da questo articolo di Camilla Minarelli di questo mese, per cui si racconta come il vecchio quotidiano possa passare a miglior vita e diventare combustibile. Un pool di scienziati della Louisiana ha scoperto un nuovo ceppo batterico in grado di produrre butanolo dalla cellulosa, dando vita quindi a un biocarburante. Attualmente i ricercatori stanno conducendo una serie di esperimenti con quintali di vecchie edizioni del Times, venerabile quotidiano di New Orleans. La materia prima non manca di certo. Solo negli Stati Uniti, ci racconta Camilla Minarelli, almeno 322 milioni di tonnellate di materiali cellulosici vengono gettati via ogni anno. Inoltre, la cellulosa si trova in tutte le piante verdi ed è il materiale organico più abbondante sulla Terra. Convertirlo in butanolo è il sogno di molti. Dunque, è possibile che gli editori si convertano in produttori di energia. Restando ancora su il, c'è un articolo di Roberta Giaconi che ci racconta come in Australia si sia dichiarata guerra aperta alla nicotina e al fumo. Lo scorso 10 novembre il Senato del Paese ha approvato la legislazione più restrittiva al mondo in tema di sigarette. Niente più marchi o colori attraenti. Da dicembre 2012 tutti i pacchetti dovranno essere rigorosamente uguali, di un brutto colore verde oliva, considerato il meno attraente per i consumatori, e senza marchi o decorazioni. Salirà inoltre dal 30 al 75% la superficie coperta da immagini di bambini malati o persone morenti per malattie legate al fumo. Ai produttori sarà concesso soltanto di scrivere il nome delle sigarette vendute e del proprio marchio in colori, dimensioni e stile standard uguali per tutti. Dunque, guerra alla nicotina e al tabacco in Australia. Sempre di tabacco ci parla un articolo del mensile del National Geographic Storica, portandoci ovviamente un po' indietro nel tempo. Siamo in un momento di crisi, di manovra finanziaria, di nuove tasse, e tassare tabacco e addirittura altri elementi del corpo umano poteva essere una risorsa anche in altre epoche storiche. Questo articolo che mi ha incuriosito riguarda appunto l'attività fiscale compiuta da Pietro il Grande nel 1697, il quale appunto per modernizzare la Russia aveva intrapreso un viaggio in incognito in Europa e aveva notato che molti europei non avevano la barba e probabilmente fumavano meno dei suoi connazionali. Così nell'ambito della modernizzazione della Russia impose una tassa sulla barba per costringere i suoi barbuti sudditi a radersi, e in più tassò pesantemente anche il tabacco per ricavare altro denaro necessario alla profonda opera di innovazione del paese. Alla sua morte, infatti, la Russia era divenuta una tra le maggiori potenze europee, e chissà che qualcuno anche in Europa non decida di tassare in maniera ancora più incisiva il tabacco, in modo da rimettere i conti in ordine in Italia e appunto e nell'intera comunità europea. Ancora un altro articolo da il mensile del Sole 24 Ore, che trovate in edicola in questi giorni, ci racconta di uno strano effetto della crisi o di calamità naturale su un prodotto come le banane, che pare in Australia siano diventate un elemento quasi d'oro. Questo perché appunto è stato un anno duro, in quanto complice il ciclone Yasi, che a febbraio ha devastato intere regioni dell'Australia, distruggendo peraltro tre quarti della produzione di banane a livello nazionale, i prezzi per i pochi frutti rimasti sono saliti alle stelle. Il costo è aumentato addirittura del 377% in 6 mesi, $15 al chilo e a volte anche di più. Segno appunto delle grandi perdite subite dai circa 250 produttori a livello nazionale. In pratica, in Australia la produzione di banane pare che valga oltre 450 milioni di dollari e chi come produttore è riuscito a salvarsele ora sta facendo affari d'oro, quindi anche le banane possono portare grandi introiti. E infine, sempre un articolo per citare il riguarda gli UFO e la crisi. Pare che appunto, secondo uno studio del Wall Street Journal, pubblicato sul Wall Street Journal, stia crescendo in tutto il mondo l'avvistamento di UFO per colpa della crisi. Segno che evidentemente quando non si hanno più soldi nel portafoglio è meglio guardare in alto e le stelle. Magazine 24. Bentornati su Radio 24. Molti di voi saranno in macchina e stanno viaggiando nello spazio, ma forse un domani sarà possibile anche viaggiare nel tempo, e questo è il tema di un articolo di Focus Extra che mi ha molto incuriosito, anche perché magari qualcuno di voi sta guardando in queste settimane una serie TV, Terra Nova, che va in onda su Sky, sui canali Fox, segno di un'attenzione, di una curiosità verso la possibilità appunto di tornare indietro nel tempo, una curiosità che hanno anche molti fisici, i quali si stanno interrogando su questa possibilità, in particolare dal 23 settembre scorso, quando è stato reso noto uno dei risultati dell'esperimento Opera, che si proponeva di studiare le oscillazioni dei neutrini tra le loro diverse identità, ci dice questo articolo. Solo che il tempo impiegato da neutrini per coprire i 732 chilometri che dividono il CERN di Ginevra, dove venivano prodotti da un acceleratore di particelle dal laboratorio del Gran Sasso, dove sono stati montati i rivelatori, è risultato inferiore a quello di particelle che si muovono alla velocità della luce, un limite ritenuto invalicabile dalla teoria della relatività di Einstein. In pratica, cosa è successo? I neutrini hanno viaggiato più velocemente della luce e questo sta mettendo in discussione molte teorie consolidate. Questo articolo poi ci racconta un po' il dibattito che è in corso tra i fisici. Molti sono naturalmente scettici sulla possibilità di viaggiare nel tempo, e in particolare appunto si parla di questo paradosso del nonno: viaggiare o inviare segnali, si conclude appunto l'articolo di Daniele Venturoli, verso il passato potrebbe violare il principio, porterebbe a violare il principio di causa ed effetto che sta alla base delle attuali teorie fisiche. Questa violazione viene attualmente considerata inaccettabile, in contrasto con tutte le evidenze sperimentali disponibili. È appunto il paradosso del nonno. Se fosse possibile tornare nel passato, il viaggiatore potrebbe anche trovarsi a dover uccidere il proprio nonno, il che renderebbe impossibile al viaggiatore il viaggio nel tempo, dato che non sarebbe mai nato. Dunque una contraddizione che spegne i sogni di chi come me vorrebbe magari tornare in epoche passate, ma chi è appassionato di storia potrà in qualche modo tornare indietro nel tempo, visitando questa mostra che dal febbraio 2012 presente nei locali dei musei capitolini. In particolare sarà possibile visionare la pergamena di Kenon. Chi è appassionato di misteri templari sa di cosa parlo, spero di averlo pronunciato bene, perché è in pratica, dopo 700 anni, i fascicoli del processo ai monaci guerrieri saranno esposti in questa mostra, svelando un giallo irrisolto. L'ordine infatti fu sciolto, a quanto pare, per sempre, ma tanti dubbi sono stati posti sulla effettiva chiusura di questo famigerato, famoso ordine dei Templari, cosa che ha fatto la fortuna di molti scrittori, registi, perché riconoscerete sicuramente la storia dei Templari nei libri, per esempio, di nel Codice da Vinci piuttosto che nell'ultimo dei Templari, il film con Nicolas Cage. Insomma, c'è tanta letteratura, tanta cinematografia che ha cercato di raccontare questo mistero. Per chi vorrà saperne di più, potrà recarsi appunto ai Musei Vaticani e provare in qualche modo a restare ancora di più affascinato a questo mistero. Intanto volevo ricordarvi oggi, insieme al Sole 24 Ore, il nuovo racconto d'autore Solo Bontà di Jhumpa Lahiri, una scrittrice di origini bengalesi, ma che vive a New York e lavora a New York. Ha scritto anche un romanzo omonimo, e questo racconto è appunto il racconto di due ragazzi bengalesi, fratello e sorella, che diventano adulti in America e con vicende molto diverse. Insomma, il tema dell'integrazione e delle culture che si avvicinano ma più spesso si scontrano. Molta curiosità ha destato la lettura che ho fatto in questi giorni di Focus e in relazione alle più importanti innovazioni dal 1950 in poi, quelle che hanno cambiato la nostra vita, anche perché accade spesso che non ci si renda conto di quanto tempo magari è passato dal momento in cui determinate invenzioni e innovazioni tecnologiche sono state fatte, e quando noi poi le abbiamo utilizzate sembra che siano state, come dire, fatte da sempre, o che siano invece giovanissime. Per esempio, il videoregistratore è stato inventato nel 1956 da un ingegnere russo-americano. È stato presentato sul mercato appunto un apparecchio in grado di registrare un programma televisivo e di mandarlo in onda in maniera differita. Per esempio, lo schermo a plasma, di cui ormai tutte le case sono piene, è stato inventato soltanto addirittura nel 1964, e l'anno prima, nel 63, la Philips ha immesso sul mercato la prima musicassetta con 4 tracce. Il primo videogioco, quello che si può definire tale, è stato invece brevettato nel 71, e il primo telefono cellulare, ecco, risale addirittura al 1973. Lo inventa Martin Cooper, direttore della Motorola, ma bastano 10 anni prima che appunto venga poi presa la decisione di fabbricarlo e di metterlo sul mercato al costo di $4.000. Altre invenzioni, appunto, che hanno cambiato la nostra vita quotidiana sono più recenti. Nel 97 è stato inventato il DVD, le videocamere nel 1983, e ancora, questo ha meno a che fare con la tecnologia, il Viagra, per esempio, risale al 1998, il suo brevetto. Più recente, invece, l'introduzione di strumenti tecnologici come l'ebook, che risale al 2006, l'iPad invece è arrivato nel 2010, YouTube nel 2005 è stato inventato, quindi l'anno prima non c'era ancora, e invece, insomma, ha cambiato la metodologia di uso di internet che molti di noi fanno. Ancora in tema di curiosità, Focus ci regala qualche perla. Per esempio, il fatto che l'Everest è stato scalato da più di 4.000 persone, tra cui un ragazzino di 13 anni, un nonno di 76, un cieco e un disabile senza gambe. Tra l'altro, ancora un'altra curiosità, nel cuore di un tornado si trovano spesso un'infinità di piume e penne strappate alle galline dai venti che raggiungono i 300 km all'ora. Questa è meno interessante, forse si potrebbe, come dire, immaginare tutto quello che c'è in un tornado a parte le piume delle galline. Ma ancora c'è anche un'avvertenza ora per chi va in giro, insomma, magari inavvertitamente provoca incendi, perché Focus ci racconta che non bisogna mai buttare pistacchi in natura perché possono provocare incendi. L'olio che contengono li espone infatti, in presenza di fattori favorevoli come il caldo e il vento, all'autocombustione, quindi attenti ai pistacchi. Insomma, sono notizie che possono, come dire, cambiare la vita di un bosco, e quindi bisogna fare attenzione. Un minuto? Quindi un'altra cretinata, posso dirla. Basta Focus, però Focus è interessante. Vabbè, ma l'ultima... Eccolo, su Hill, chiamiamo Hill il nostro prodotto. L'addio ai postini in America, questa cosa è triste. Un minuto proprio veloce e poi devo dare i saluti. Perfetto. E infine una notizia triste: negli Stati Uniti stanno sparendo i postini. Infatti, la mancanza di lettere da consegnare sta comportando un licenziamento in tronco dei postini oltre oceano. Nell'ultimo anno buste e pacchi sono diminuiti infatti di 3 miliardi e con perdite pari a 5,1 miliardi. Le Poste USA temono di fallire addirittura nei prossimi 12 mesi se il governo non interverrà. La prima ricetta, appunto, quello di licenziare, pare un numero spropositato di postini, il che avrebbe reso per esempio impossibile film famosissimi come Il postino suona sempre due volte. Ora non suonerà nessun postino, insomma, al massimo arriverà l'email. Bene, con questo ci stiamo avviando alla conclusione. Voglio salutare in regia Paolo Corleoni, io sono Marco Bellinazzo e vi saluto a domenica prossima col prossimo appuntamento con Mauro Meazza.